Capitolo ventunesimo. Carattere e imprese di Apollo. Apollo, figlio di Zeus e di Latona, nacque di 7 mesi, ma gli dei crescono in fretta. Temi lo nutrì di nettare e ambrosia, e dopo 4 giorni il bimbo già chiedeva a gran voce arco e frecce che Efesto subito gli porse. Partito da Delo, Apollo si diresse senza indugio verso il monte Parnaso, dove si celava il serpente Pitone, nemico di sua madre, e lo ferì gravemente con le sue frecce. Pitone si rifugiò presso l'oracolo della madre terra a Delfi, città così chiamata in onore del mostro Delfine, compagna di Pitone, ma Apollo osò inseguirlo anche nel tempio e lo finì dinanzi al sacro crepaccio. La madre terra, oltraggiata, ricorse a Zeus, che non soltanto ordinò ad Apollo di farsi purificare a Tempe, ma istituì i giochi pitici in onore di Pitone e costrinse Apollo a presiederli per penitenza. Apollo sfrontatamente non si curò di obbedire agli ordini di Zeus e invece di recarsi a Tempe andò a Egialia in compagnia di Artemide per purificarsi e, poiché il luogo non gli piacque, salpò per Tara in Creta, dove re Carmanore eseguì la cerimonia di purificazione. Al suo ritorno in Grecia, Apollo andò a cercare Pan, il dio Arcade dalle gambe di capra e dalla dubbia reputazione, e dopo avergli strappato con blandizie i segreti dell'arte divinatoria, si impadronì dell'oracolo delfico e ne costrinse la sacerdotessa, detta Pitonessa, a servirlo. Latona, udita questa notizia, si recò con Artemide a Delfi, dove si appartò in un sacro boschetto per adempiere a certi riti. Il gigante Tizio interruppe le sue devozioni e stava tentando di violentarla quando Apollo e Artemide, udite le grida della dea, accorsero e uccisero Tizio con un nugolo di frecce. Una vendetta che Zeus, padre di Tizio, si compiacque di giudicare pio atto di giustizia. Nel Tartaro Tizio fu condannato alla tortura con le braccia e le gambe solidamente fissate al suolo. Il suo enorme corpo copriva un'area di 9 acri e 2 avvoltoi gli mangiavano il fegato. In seguito Apollo uccise il satiro Marsia, seguace della dea Cibele, ed ecco come si svolsero gli eventi. Un giorno Atena si fabbricò un doppio flauto con ossa di cervo e lo suonò a un banchetto degli dei. Essa non riuscì a capire dapprima perché mai Era e Afrodite ridessero silenziosamente nascondendosi il volto tra le mani, benché la sua musica paresse deliziare gli altri dei. Appartatasi perciò nel bosco frigio, riprese a suonare nei pressi di un ruscello e così facendo osservò la sua immagine riflessa nello specchio delle acque. Resasi subito conto di quanto fosse orribile a vedersi col viso paonazzo e le gote enfiate, gettò via il flauto e lanciò una maledizione contro chiunque lo avesse raccolto. Marsia fu l'innocente vittima di quella maledizione. Egli trovò per caso il flauto e non appena se lo portò alle labbra, lo strumento si mise a suonare da solo, quasi ispirato dal ricordo della musica di Atena. Marsia allora percorse la Frigia al seguito di Cibele, deliziando con le sue melodie i contadini ignoranti. Costoro infatti proclamavano che nemmeno Apollo con la sua lira avrebbe saputo far di meglio e Marsia fu tanto sciocco da non contraddirli. Ciò naturalmente provocò l'ira di Apollo che sfidò Marsia a una gara. Il vincitore avrebbe inflitto al vinto la punizione che più gli fosse piaciuta. Marsia acconsentì e Apollo affidò il giudizio alle muse. I due contendenti chiusero la gara alla pari, poiché le muse si dichiararono egualmente deliziate dalle loro melodie. Ma Apollo gridò allora a Marsia: «Ti sfido a fare col tuo strumento ciò che io farò con il mio. Dovrai capovolgerlo e suonare e cantare al tempo stesso». Il flauto, come logico, non si prestava a una simile esibizione e Marsia non poté raccogliere la sfida. Apollo invece rovesciò la sua lira e cantò inni così dolci in onore degli dei Olimpi che le muse non poterono fare a meno di dichiararlo vincitore. Allora Apollo, nonostante la sua presunta dolcezza, si vendicò di Marsia in modo veramente efferato e crudele, scorticandolo vivo e appendendo la sua pelle a un pino oppure a un platano, come altri sostengono, presso la sorgente del fiume che ora porta il suo nome. Apollo vinse poi una seconda gara musicale, cui presiedette il re Mida e questa volta sconfisse Pan. Divenuto così ufficialmente il dio della musica, Suona sempre la sua lira dalle sette corde durante i banchetti degli dei. Altro suo compito fu quello di sorvegliare le greggi e le mandre che gli Olimpi possedevano nella Pieria, ma in seguito delegò questo incarico a Ermete. Pur rifiutando di legarsi in matrimonio, Apollo ha generato molti figli in ninfe o in donne mortali. Tra costoro ricordiamo Ftia, che diede alla luce Doro e i suoi fratelli, e Talia, la musa madre di Coribante, e Coronide, madre di Asclepio, e Aria, madre di Mileto, e Cirene, madre di Aristeo. Apollo sedusse anche la ninfa Driope, che custodiva le greggi di suo padre sul monte Eta in compagnia delle sue amiche, le Amadriadi. Apollo si tramutò in tartaruga e tutte le fanciulle si dilettarono con quell'animaletto, ma non appena Driope se lo pose in grembo, Apollo si trasformò in serpente e, sibilando, mise in fuga le Amadriadi per poi godere della ninfa. Driope gli generò Anfisso, che fondò la città di Eta ed eresse un tempio in onore di suo padre. Colà Driope servì come sacerdotessa finché un giorno le Amadriadi la rapirono e lasciarono un pioppo al suo posto. Non sempre il successo arrideva ad Apollo nelle imprese d'amore. Un giorno cercò di sottrarre Marpessa a Ida, ma essa rimase fedele a suo marito. Un altro giorno inseguì Dafne, la ninfa dei monti, sacerdotessa della madre terra e figlia del fiume Peneo di Tessaglia. Ma quando l'ebbe raggiunta, Dafne invocò la madre terra che in un baleno la trasportò in Creta, dove essa divenne Pasifae. La madre terra fece poi crescere un lauro là dove si trovava Dafne e Apollo intrecciò una corona con le sue foglie per consolarsi. Bisogna aggiungere che il tentativo di usare violenza a Dafne non fu fatto d'impulso. Da molto tempo Apollo l'amava e aveva artatamente provocato la morte del suo rivale Leucippo, figlio di Enomao, che si era travestito da fanciulla per unirsi a Dafne sulle pendici del monte. Apollo, scoperto l'inganno grazie all'arte divinatoria, consigliò le ninfe montane di bagnarsi nude per accertarsi che il loro gruppo fosse composto di sole donne. L'inganno di Leucippo fu così scoperto e le ninfe lo fecero a pezzi. Vi fu poi l'episodio del bel giovane Giacinto, un principe spartano di cui si innamorarono non soltanto Tamiri, il primo uomo che concupì un individuo del suo stesso sesso, ma anche Apollo, il primo dio che fece altrettanto. Per Apollo, Tamiri non fu un rivale pericoloso. Saputo infatti che egli si vantava di superare le muse nel canto, Apollo riferì tali parole alle muse stesse che subito privarono Tamiri della vista, della voce e della memoria. Ma anche il vento dell'ovest si era invaghito di Giacinto e divenne pazzamente geloso di Apollo. Questi stava un giorno insegnando al fanciullo come si lancia un disco quando il vento dell'ovest fermò il disco a mezz'aria e lo mandò a sbattere contro il cranio di Giacinto, uccidendolo. Dal suo sangue nacque il fiore del Giacinto, su cui si vedono le lettere iniziali del suo nome. Apollo attirò su di sé la collera di Zeus soltanto una volta, dopo il famoso complotto organizzato dagli dei per detronizzarlo. Ciò accadde quando il figlio del dio Asclepio, il medico, ebbe l'ardire di risuscitare un uomo morto, privando così Ade di un suddito. Ade naturalmente se ne lagnò in Olimpo. Zeus uccise Asclepio con una folgore e Apollo, per vendicarsi, uccise i ciclopi. Zeus, furibondo al vedere sterminata la sua guardia del corpo, avrebbe esiliato per sempre Apollo nel Tartaro se Latona non ne avesse implorato il perdono, assicurandogli che da quel giorno in poi Apollo si sarebbe emendato. La sentenza fu ridotta a un anno di lavori forzati che Apollo scontò, pascolando le greggi di re Admeto di Fere. Obbedendo ai consigli di Latone, il dio non soltanto accettò umilmente il verdetto, ma colmò Admeto di favori. Ammaestrato dall'esperienza, Apollo in seguito predicò la moderazione in ogni cosa. Le frasi «conosci te stesso» e «nulla in eccesso» erano sempre sulle sue labbra. Indusse le muse ad abbandonare la loro sede sul monte Elicona per trasferirsi a Delfi, domò la loro furia selvaggia e insegnò loro a intrecciare danze decorose e garbate. La storia di Apollo è molto confusa. Secondo i greci, egli era figlio di Latona, una dea nota come Lat nella Palestina meridionale. ma era anche dio degli iperborei, cioè di quegli uomini che abitavano oltre il vento del nord e che Ecateo identifica chiaramente con i britanni, benché Pindaro li considerasse libici. Delo era il centro del culto iperboreo che si estendeva, pare, a sud-est fino alle regioni nabatea e palestinese, a nord-ovest fino alle isole britanniche e comprendeva anche Atene. Gli Stati Uniti da questo culto si mantenevano in costanti rapporti. Gli iperborei sacrificavano ad Apollo ecatombi di asini e ciò ci consente di identificare questo dio con il fanciullo Oro, la cui vittoria sul fratello Set veniva annualmente celebrata dagli egiziani con una corsa d'asini imbizzarriti che precipitavano alla fine in un burrone. Oro aveva punito Set, colpevole d'aver assassinato suo fratello Osiride, cioè il re sacro, prediletto dalla triplice dea Luna, Iside o Lat, che il successore sacrificava a metà estate e a metà inverno e di cui Oro era la reincarnazione. La leggenda di Latona inseguita da Pitone corrisponde alla leggenda di Iside inseguita da Set durante i 72 giorni più caldi dell'anno. Inoltre Pitone viene identificato con Tifone, il Set greco, sia nell'inno omerico ad Apollo, sia dallo scolio ad Apollonio Rodio. Apollo iperboreo è in sostanza l'oro greco. Il mito assunse in seguito anche un carattere politico. Si dice che Pitone avesse inseguito Latona per ordine di Era, che aveva generato il serpente per partenogenesi allo scopo di fare un dispetto a Zeus. Apollo, dopo aver ucciso Pitone, e con lui presumibilmente anche la sua compagna Delfine, si impadronisce dell'oracolo della madre terra a Delfi, poiché Era era la madre terra o Delfine nel suo aspetto profetico. Pare che certi elleni del nord, alleati ai tracolibi, invadessero la Grecia centrale e il Peloponneso, dove la loro avanzata fu ostacolata dai pre-ellenici seguaci della madre terra. Ma gli elleni li sconfissero e occuparono i loro principali templi oracolari. A Delfi uccisero il serpente sacro, un serpente analogo veniva custodito nell'Eretteo ad Atene, e si assunsero la tutela dell'oracolo in nome del loro dio, Apollo Sminteo. Sminteo, simile al topo, come il dio guaritore cananita Esmun, aveva per emblema un topo curativo. Gli invasori acconsentirono a identificarlo con Apollo, l'oro iperboreo venerato dai loro alleati. Per placare l'opinione pubblica, a Delfi furono istituiti solenni giochi funebri in onore del morto eroe Pitone e la sua sacerdotessa venne mantenuta in carica. La dea Luna Brizo, che placa di Delo, che in pratica non si distingue da Latona, può essere identificata con la triplice dea iperborea Brigit, che entrò poi nel mondo cristiano come Santa Brigida. Brigit era patrona di tutte le arti e Apollo seguì il suo esempio. La leggenda di Tizio che tenta di violentare Latona rispecchia forse un fallito tentativo di rivolta dei montanari della Fogite contro gli invasori. Le vittorie di Apollo su Mursia e su Pan commemorano le conquiste elleniche della Frigia e dell'Arcadia, che ebbero come conseguenza il prevalere, in quelle regioni, degli strumenti a corda sugli strumenti a fiato, forché nell'ambiente più povero dei contadini. Il supplizio di Marsia ricorda il sacrificio rituale di un re sacro che veniva scorticato. Anche Atena privò Pallade della sua magica egida. Oppure lo scortecciamento di un ontano per farne uno zufolo da pastore, dato che l'ontano era personificato in un dio o in un semidio. Apollo era considerato un antenato dei Dori e dei Milesi, che gli tributavano onori speciali. I coribanti, che intrecciavano danze durante la festa del solstizio d'inverno, venivano considerati figli di Apollo e della musa Talia, poiché Apollo era il dio della musica. La vicenda di Apollo che insegue Dafne, ninfa dei monti, figlia del fiume Peneo e sacerdotessa della madre terra, si riferisce evidentemente alla conquista ellenica di Tempe, dove la dea Dafne, la sanguinaria, era venerata da un collegio di menadi orgiastiche masticatrici di foglie di alloro. Dopo aver soppresso il collegio delle menadi, Apollo divenne il patrono dell'alloro e in seguito soltanto la Pizia poté masticarne le foglie. Può darsi che Dafene fosse rappresentata con una testa di giumenta a tempe e a figalia. Leucippo, stallone bianco, era il re sacro del culto locale del cavallo, che ogni anno veniva fatto a pezzi da donne invasate. Queste si bagnavano per purificarsi dopo la cruenta cerimonia e non prima. Il mito di Apollo, che seduce Driope sul monte Eta, si ricollega forse alla soppressione di un locale culto della quercia, sostituito da quello di Apollo, dio cui era sacro il pioppo. Lo stesso si può dire del mito della seduzione di Aria. La metamorfosi di Apollo in tartaruga si ricollega al mito della lira che il dio acquistò da Ermete. Il nome di Ftia ci induce a pensare che essa si identificasse con la grande dea nel suo aspetto autunnale. Il mancato tentativo di seduzione di Marpessa pare ricordi il mancato tentativo di Apollo di impossessarsi di un santuario messenico, cioè quello della dea del grano e del raccolto. Apollo, che serve Admeto di Fere, ricorda forse un episodio storico, cioè l'umiliazione dei sacerdoti di Apollo puniti per aver massacrato i componenti di un'associazione preellenica di fabbri posta sotto la protezione di Zeus. Il mito di Giacinto, che a prima vista pare soltanto una favola sentimentale inventata per giustificare le lettere che si distinguono sui petali del fiore, riguarda invece l'eroe cretese Giacinto, chiamato anche Narciso, il cui culto fu introdotto nella Grecia micenea e che diede il suo nome all'ultimo mese dell'estate a Creta, Rodi, Coo, Tera e Sparta. L'Apollo dorico usurpò il nome di Giacinto a Taranto, dove fu onorato con una tomba eroica, e ad Amicle, una città micenea, un'altra tomba di Giacinto, divenne la base del trono di Apollo. A quell'epoca Apollo era ormai un dio immortale, mentre Giacinto regnava per una sola stagione. La sua morte, colpito da un disco, ricorda quella di suo nipote Acrisio. Coronide, Cornacchia, che Apollo rese madre di Asclepio, fu probabilmente un appellativo di Atena, ma gli ateniesi negarono sempre che essa avesse avuto figli e alterarono il mito. Nell'epoca classica la musica, la poesia, la filosofia, la matematica, la medicina e la scienza erano sotto il controllo di Apollo. Come nemico della barbarie, egli predicava la moderazione in ogni cosa e le sette corde della sua lira, che corrispondevano alle sette vocali del tardo alfabeto greco, avevano un significato mistico e venivano usate per suonare musica terapeutica. Infine, grazie alla sua identificazione con il fanciullo Oro, divinità solare, Apollo fu venerato come sole, astro il cui culto a Corinto era stato usurpato da quello dello Zeus solare. Sua sorella Artemide fu giustamente identificata con la luna. Cicerone, nel suo De Natura Deorum, dice che Apollo, figlio di Latona, era il quarto di una lunga serie di dei dello stesso nome. Egli elenca infatti Apollo, figlio di Efesto, Apollo, padre dei coribanti cretesi, e l'Apollo che diede all'Arcadia le sue leggi. Il mito di Apollo che uccide Pitone non è così semplice come sembra a prima vista, poiché la pietra, Omphalos, su cui sedeva la pitonessa era per tradizione la tomba di un eroe incarnato in un serpente e che per bocca appunto della Pizia formulava gli oracoli. I sacerdoti ellenici di Apollo usurparono le funzioni del re sacro che aveva sempre ucciso il suo predecessore, l'eroe, in modo legittimo e con un complicato cerimoniale. Ciò viene confermato da quanto scrive Plutarco a proposito del rito detto Stepterion nel suo Perché gli oracoli tacciono. Ogni 9 anni sulle soglie del tempio a Delfi veniva innalzata una capanna che riproduceva una dimora regale e si simulava un attacco notturno. La tavola, dove erano disposte le primizie, veniva capovolta, la capanna incendiata, e gli uomini, muniti di torce, si allontanavano senza guardarsi alle spalle. In seguito, il giovane che aveva preso parte all'assalto si recava a Tempe per la purificazione e ne tornava in trionfo, coronato di alloro e con un ramo di alloro in mano. L'improvviso e ben concertato attacco al re rifugiato nella capanna ricorda il misterioso assassinio di Romolo compiuto dai suoi compagni. Ricorda anche il sacrificio annuale delle Bufonia ad Atene, quando i sacerdoti che avevano ucciso con la bipenne lo Zeus Bove fuggivano senza guardarsi alle spalle e poi mangiavano le carni dell'animale sacrificato nel corso di una grande festa, dove si mimava con danze la resurrezione del Bove e la bipenne era portata in giudizio sotto accusa di sacrilegio. A Delfi, come pure a Cnosso, il re sacro regnava senza dubbio fino al nono anno. Il ragazzo si rifugiava a Tempe perché colà ebbe origine il culto di Apollo.